trasportare il vento, cercando dentro il tempo un sentimento che farà unione ai nostri cuori, cancelli frustrazioni, dolori, e sarà un nostro grande giorno di felicità. Rincorrerci sui prati e poi cadere giù, cadere uno sull'altro per distendere i caldi corpi che fan di noi un gioco che esaurito viene accantonato per poi riprenderlo. E sarà oggetto di un amore che stiamo mai vivendo nell'infedeltà, ma sarà un altro grande giorno di felicità. Rincorrerci sui prati e poi cadere giù, cadere uno sull'altro per distendere i caldi corpi che sono lì ad ascoltare il vento, cercando dentro il tempo un sentimento che farà unione ai loro cuori, cancelli frustrazioni e dolori, ma sarà ancora un grande giorno di felicità. Rincorrerci sui prati e poi cadere giù, cadere uno sull'altro per